Divago, percorsi ondosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura, un programma ideato e condotto da Max Ponte. Ondivago ritorna con la sua seconda puntata, sempre con Max Ponte al microfono e con la nostra trasmissione in onda su Radio Prima in Belgio e Radio Valdarno in Italia. La musica è di Kevin MacLeod. E in questo numero continuiamo la nostra esplorazione artistica. Rimandiamo l'incontro con la francofonia che avevamo annunciato. Al microfono ospite l'arte povera, con Antonio Tucci Russo, che ci racconta la sua galleria e gli artisti portati alla FIAC di Parigi. Proseguiamo con un giovane artista giapponese, Shinya Sakurai. Ondivago si muove così fra due gallerie d'arte, allungando le sue orecchie a dismisura. Antonio Tucci Russo fonda la sua galleria nel 1975 a Torino, per poi trasferirsi a Torre Pellice, nelle valli valdesi. Tucci Russo segue il movimento Arte Povera sin dagli esordi ed inizia esponendo Pierpaolo Calzolari, alla cui opera è ancora legato. Riconosciuto quindi come gallerista dell'Arte Povera, si afferma a livello internazionale, contemporaneamente al successo dei Poveristi. L'articolo Arte Povera, note per una guerriglia, comparso a firma di Germano Celant su Flash Art nel dicembre del 1967, definisce insieme al famoso manifesto le linee programmatiche della corrente, cioè un'arte in cui la povertà dei materiali deve condurre e rappresentare essenzialmente energie vitali dell'artista e dell'ambiente. Celant, critico d'arte al quale si deve il nome, mutuato dal teatro di Grotowski, afferma che l'arte povera si manifesta essenzialmente nel ridurre ai minimi termini, nell'impoverire i segni, per ridurli ai loro archetipi. Al movimento appartengono artisti esposti ormai in grandi musei, come il Castello di Rivoli, che proprio all'arte povera ha consacrato la sua collezione permanente. Gli artisti da ricordare sono Anselmo, Boetti, Ceroli, Fabbro, Gilardi, Cunellis, Mainolfi, Merz, Paolini, Pascali, Penone, Pistoletto e Zorio. Ma passiamo la parola a Tucci Russo, colto prima di partire per la FIAC di Parigi. Appena inaugurato queste sei personali per i 35 anni di attività, quindi è stato un periodo, è un periodo di lavoro. Molto ricco, meglio diciamo. Molto meglio, certo. Sì. Come vanno i preparativi per Parigi? Quali autori porterete? Bene, guardi, io purtroppo non ho uno stand così grande a Parigi da poter, diciamo, presentare in maniera come vorrei i lavori, però abbiamo cercato, come facciamo d'abitudine, di coniugare un po' la storia della galleria con quelle che sono le nuove generazioni con cui noi stiamo lavorando, e quindi cerchiamo di far dialogare un po' i lavori. Quindi per Parigi ho pensato ad uno stand in cui presento, diciamo, due lavori di Penone, uno riguardante l'ultima mostra che ho fatto, che era una mostra che creava un percorso dal 69 fino agli ultimi lavori da me in galleria, di cui abbiamo editato anche un catalogo molto interessante, e invece un lavoro che riguarda sempre l'idea del toccare, cioè la pelle, ma realizzato con le spine da caccia su un fondo di seta, che è un lavoro di 150 per 120. E poi porto un lavoro di Calzolari, degli ultimi. Calzolari è un artista con cui ho iniziato, praticamente aperto la galleria nel 75, ricominciando a fare tutto il percorso sull'arte italiana, quindi le vecchie generazioni, diciamo, con i giovani artisti che ho subito introdotto in galleria in quegli anni. E invece qui presentiamo un lavoro recente, che è un lavoro del 2008, che è un lavoro realizzato con del sale combusto sono due rettangoli che stanno insieme, neri, di sale combusto, sembra un velluto, con al centro delle serpentine che ghiacciano, e quindi c'è un'immagine molto bella tra questo nero e questa, diciamo, questo ghiaccio del frigorifero, e naturalmente il lavoro esiste solo nella misura in cui è attaccato al motore del frigorifero. Sì, quello è un classico di calzolari. Poi porto un lavoro di Anselmo sull'invisibile, che è un lavoro degli anni 70, che è un blocco di granito, naturalmente con la scritta visibile, e quindi l'in, ecco, la parte visibile è quella che si materializza nel granito, diciamo, no? E poi porto, diciamo, della vecchia generazione, un lavoro di Paolini dell'ultima mostra che ho fatto, che si chiama Interno Metafisico, che è, diciamo, sempre basato sugli strumenti che riguardano la pittura, ma anche proprio l'aspetto metafisico della pittura, che è un lavoro di 120 per 110 circa di formato. E poi presento le nuove generazioni, che sono per l'appunto Francesco Gennari, che è un artista di Pesaro, che lavora proprio su una proposizione metafisica come iperbole, analizzando un po' il terreno di Gino De Dominicis, ma dentro la scultura in qualche modo. E porto due lavori, che sono due autori tratti. Poi porto un lavoro di Gianni Caravaggio, che sempre sul tema della scultura presenta un lavoro realizzato sull'idea dell'infinito e di universo, ed è un collage a parete, mentre a pavimento c'è un lavoro che riguarda l'idea delle colonne tortili, è realizzato in carta, e un disegno, è una colonna fatta con delle risme di carta che ha, diciamo, di un'altezza di 60 centimetri, che non sta proprio dentro il suo baricentro. Gianni Caravaggio è un artista che è stato il più bravo allievo di Luciano Fabbro, e da tempo lavora su un processo, diciamo, sul processo nuovo della scultura, ma analizzando, diciamo, il contesto dell'universo sia in senso scientifico che filosofico. Poi porto un artista sudafricano che si chiama Robin Rod, che vive a Berlino ed è di Cape Town, che utilizza la fotografia e il video. In questo caso porterò un lavoro fotografico, ed è una piccola performance che lui fa utilizzando una vecchia parete un po' screpolata, e inizia a disegnare, diciamo, in linea l'immagine di una serie di Miss Van der Rohe, che diventa accumulazione nelle 12 fotografie che vengono presentate nell'opera. Questo più o meno, ecco, se non dimentico adesso, così a memoria, se non dimentico, e no, poi porterò una scultura di Tony Craig in legno, di questi volti implosi dentro la materia. Perfetto, Tony Craig anche, quindi sono tutte autori e opere che in parte poi troviamo anche nei musei, sì, che sì, sono dedicati, che si sono consacrati all'arte povera. Esatto. Come va l'arte povera italiana a livello di mercato, a livello di apprezzamento a livello internazionale? Ma guarda, io devo dire che l'arte povera ha sempre avuto sul mercato, diciamo, un certo tipo di interesse, là in quei collezionisti che ne hanno capito le qualità. In questo momento l'immagine si sta, diciamo, aprendo di più, e sul mercato internazionale c'è molto interesse, anche negli Stati Uniti, devo dire. Quindi uno dei pochi movimenti internazionali italiani. Ma calcoliamo che poi dopo il futurismo, sì, è poi il movimento più importante che abbiamo in Italia. Sì, si sostiene, poi lei mi correggerà che è più informato, che dopo il futurismo e poi assieme alla Transavanguardia sia stato... Sì, ma diciamo che la Transavanguardia, io anche, guardi, negli anni che furono ho fatto le prime mostre di Sandro Chia e di Enzo Cucchi, nel momento in cui Chia non affrontava ancora direttamente il tema della pittura, ma ne faceva un attraversamento attraverso una proposizione di tipo concettuale, scrivendo una poesia che si sviluppava metaforicamente nello spazio. Era stata una mostra, devo dire, molto interessante. Beh, questi artisti, diciamo, proprio la stessa parola transavanguardia dice che sono artisti di transito nel sistema mercantile, più che di radice culturale vera e propria, a mio avviso. avviso. Definizioni che poi i critici hanno, diciamo così, hanno dato a dei gruppi di, esatto, di artisti, esatto, eccetera. Esatto. Certo, l'arte povera mantiene sempre questo interesse. Però proprio il principio dell'arte povera adesso prevedeva questa vitalità di base all'interno dell'opera, sì, essenziale. Esatto, guardi, io ho fatto una mostra adesso proprio con Giovanni Anselmo, Mario Merz, Marisa Merz, Giulio Paolini, Pierpaolo Calzolari, Anselmo, e ho dato un tema a questa mostra che è quello del moto perpetuo, proprio perché all'interno del lavoro di questi artisti i concetti che sono rappresentati nel lavoro continuano a rinnovarsi e ad avere un'energia continua che dà sempre contemporaneità all'opera, non so come dire, questo lavoro è un lavoro in movimento, in continuo movimento dal punto di vista dei concetti, e quindi si attualizza sempre, non so come dire, e rimane sempre vivo e vivace. Lei ha delle opere anche di land art? Guardi, io l'unico artista con cui lavoro di quello è Richard Long, che è un amico da sempre, ci conosciamo dagli anni 70, e che lavora con me in galleria, ecco, ed è un artista che io amo e stimo moltissimo, perché è sempre stato coerente all'interno del proprio lavoro, facendo un attraversamento degli spazi privati, degli spazi pubblici e degli spazi, diciamo, del mondo, utilizzandoli sempre nello stesso modo, quindi non c'era differenza tra i deserti, le montagne, le gallerie, i musei, diciamo il suo percorso era quello di camminare producendo arte, ecco. E di cosa è riuscito a esporre di Long, vista la grandezza anche delle sue installazioni? Ricordiamo che se lo dirivo è una serie di, certo, di massi, insomma, di pietre. Sì, uno spazio molto grande in galleria, perché sono 1200 metri quadri, per cui diciamo, gli artisti possono esprimersi molto bene, e l'ultima mostra che lui ha fatto da me era un lavoro in cui ha fatto una grandissima scultura fatta col fango sulla parete, riguardante praticamente il percorso di una montagna, e poi a pavimento c'era una di queste nuove sculture che ha realizzato, non ha mai utilizzato la forma triangolare, e ha messo una serie di lose, che è un granito italiano, che messe dritte, che creano come una sorta di paesaggio per 8 metri per 6, quindi una grandissima scultura. C'erano questi due lavori e poi una serie di lavori fotografici realizzati in Sardegna che avevo nella mostra. Questa era l'ultima mostra che lui ha fatto da me. Ecco allora che dopo questa intervista lasciamo un interrogativo, cioè se l'arte povera, alla quale va riconosciuto comunque la sua collocazione storica, possa essere ancora attualizzata, oppure non si tratti di un'esigenza di listino. Ha ancora senso proporre opere nuove su modelli degli anni 60? Probabilmente no. Anche i frigoriferi sono cambiati. Quanto al confronto con le avanguardie, la differenza è che le avanguardie storiche erano espressione diretta della volontà dell'artista, mentre l'arte povera e la transavanguardia sono nomi creati dalla critica e dalla critica sostenuti. E questo non significa deprezzare il lavoro di ottimi artisti come Penone da un lato o Cucchi, ma rendersi conto che i paragoni sono impraticabili. All'arte povera e la transavanguardia dobbiamo in ogni caso la presenza dell'arte italiana del dopoguerra nel mondo. Dopo Tucci Russo, Ondivago vuole spostare i suoi padiglioni su un giovane artista, Shinya Sakurai, giovane, promettente, dinamico e giapponese. Nato ad Hiroshima nel 1981, dopo la laurea all'Accademia delle Belle Arti di Osaka, sbarca in Italia, portando la sua visione della tragedia vissuta dalla sua città. Le sue parole, tinte di sollevante, ci divertono. Perché prima io ho laureato in Giappone, Accademia delle Belle Arti di Osaka, Dopo voglio lavorare arte contemporanea, voglio vedere gli europei perché è arte contemporanea è nato gli europei. In Giappone anche arte contemporanea c'è, ma un po' sistema diverso, quindi voglio vedere vivo di arte contemporanea in europeo. Ho deciso di Italia, ho pensato arte contemporanea, città dove è importante, ho visto Milano, Bologna e Torino, molto affascinante, anche molto importante città per arte contemporanea come culturale. Storia. Ok, noi siamo scesi in questo bellissimo studio che si trova appena sotto la galleria di cui Shinya Sakurai è direttore artistico, che è la Colombo Art Gallery, che ha un bellissimo spazio che è stato allestito proprio adesso, e qui sotto stiamo ammirando i quadri di Shinya, il quale stile, insomma, è tutto da definire, ma fra i critici si è definito il suo stile come pop. Diciamo, io ho trovato qualcosa vago di artisti come Kusama, ma anche di qualcosa di pop art, e comunque utilizza una tecnica tutta sua che adesso ci descriverà. Prima di tutto, sei d'accordo con la definizione di pop sulle tue opere? Ne riporteremo qualcuna anche nel blog della radio, così lo vedranno anche chi si collegherà. Ma sei d'accordo con questa definizione un po' più limitante, stretta? Cosa ne pensi? Pop è importante secondo me per storia di arte. Adesso, esempio, pop arte 1970, come Andy Warhol ha cominciato. Io ho pensato non è mio lavoro pop, ma tanta gente ha pensato di quello di post-pop. E se come così va bene. Perché io ho tanti influenzato di anche arte povera, arte e gruppo di guitarra informale, ma influenzato ma non è somiglia al lavoro. E quindi arte, tanto storia, c'è arte contemporanea anche, quindi influenzato tante cose. E il mio lavoro, qualcosa di simbolare, come anche qualche gente di figura facile, quindi gente capisce pop. Va bene per opera Per sopra, distinguersi, tu dici sì. va bene per distinguersi, ma è sempre un po' un limite, Sì. come tutte le etichette, anche per la letteratura, per la poesia. Diciamo, quello che emerge dai quadri tuoi, dalle tue tele, indipendentemente così, a prima vista, è un forte apporto del colore, cioè il colore emerge subito nella sua forza, e questo è diciamo, il primo elemento. Dopodiché c'è un lavoro di colatura del colore che tu fai su base vinilica, e quindi spiegaci insomma, come hai concepito tecnicamente le tue opere, cosa fai nel tuo laboratorio. Io prima, mio lavoro è prima tinta di tessuto, quello è tecnicamente tradizionale giapponese, si chiama shibori. Quello per usato da 400-500 anni fa, ha cominciato in Giappone di tecnica popolare per tinta di tessuto per kimono, per vestito. E quella tecnica io uso un po' di mistano e tecnica contemporanea. E basetta questo tessuto e sopra usa di colore olio con la vinilica mista. Quello materiale molto contemporanea, con la vinilica forse meno 100 anni, questo è per usare di fabbrica, per usare di popolare. Questo cosa mistano, voglio dire, il mio lavoro è dietro è tradizionale e sopra contemporanea. Quindi c'è questo mix tra la tela, che è un Sì. lavoro tradizionale giapponese, e il materiale che viene colato sopra, Sopra. che è la parte contemporanea. Quindi c'è questa unione tra le due parti che forse distingue il tuo lavoro rispetto a un lavoro semplice e Sì. contemporaneo, diciamo. Questa è la parte distintiva. E poi c'è questo elemento che ricorre nei tuoi quadri, che poi noteranno anche i nostri ascoltatori, poi vedendo il sito, che è l'elemento diciamo così, del cuore o del rapporto amoroso, diciamo, all'interno del tuo quadro, che è un elemento, se vogliamo, un po' pop, e però può essere distintivo, può essere un elemento distintivo per te, e dall'altro canto è anche un motivo un po' difficile, Sì. perché comunque si presta a delle letture diverse. Perché questa scelta? Io nato a Hiroshima, 1981, venuto di qui quasi 6-7 anni, tutti gente che chiede di dove sei, Io dico Hiroshima e tutta gente, ah, città di Trieste, come grigio, poverino, come dico così, ma un po' svariato. Adesso Hiroshima è molto città grande come Torino, tanti naturali colorati, perché 1945 è fatto di bomba atomica, quello famoso cosa, e tutti gente pensato dopo questa città morto. Ma mio nonno di generazione, mio padre di generazione, è ricostruito molto veloce, fatto di tanti lavori, tanti cose. Questo io molto rispetto, e io terza generazione di vivo, Hiroshima nato, e dopo esco venuto di europeo, devo presentare adesso Hiroshima molto vivace e molto colorato. Quindi io ho usato di questo mio lavoro, ho usato di molto colorato, ma ho prima parlato di pop. Io va bene, perché ultimamente questo mondo troppo meno trasparenza, tanti notizia brutto, arte importante, sempre allegro, colore, vivace, secondo me, perché arte è per bella cosa. Quindi per sopra molto pop, senti pop, colorato, ma mio lavoro come così dietro è molto importante di mia filosofia, come così, e voglio presentare tramite opera quello di Hiroshima, adesso di Hiroshima. Messaggio di speranza per il futuro, per la tua città, ma direi anche proprio per la vita di tutti quanti, insomma, quindi ha una carica positiva di energia. Ci vuoi parlare di un tuo ultimo lavoro che hai fatto? Vedo che sta emergendo nelle tue opere, che io un po' conosco per aver frequentato le tue mostre, sta emergendo un nuovo elemento, che è quello una nuova figura, che è quella del fungo. Sbaglio? È recente, vero? Certo. Coricini, quello di simbolare di per amore e pace, perché io ho venuto di 6 anni fa, non capisco lingua, non posso presentare mio cosa pensare di, e adesso abbastanza capisco parlare di lingua italiana, ancora difficile, ma anche questo famoso per bomba atomica, sì. Dopo di fatto di fungo, e quello di sopra, quando ho fatto di 1945 di agosto, ha fatto di quello brutta fungo. Io prima lavoro, prima di fungo, ho fatto di Shavao Blab, come colore di piove. È il mio tema fatto, perché 1945 di quello di bomba, dopo qualche tempo ha fatto di pioggia nero, quello è molto brutta cosa, influenzato di per cancro, eccetera, eccetera. E si io. Kuroyame. Kuroyame, anche famosa di quello di grande famoso come letteratura, come libro anche uscito. E io quindi adesso bisogno come pioggia di non è brutto, pioggia di colore, quindi ho fatto di io. Hai pensato ad una pioggia di colore al posto della pioggia in sé. Questo fungo è davvero bello, sì, ha uno sfondo completamente nero che penso rimandi alla pioggia, sì, di cui tu parli, la Kuroyame, e l'interno è colorato a macchie regolari, rosse, viola, beige, verdi, che sembra effettivamente proprio un fungo venuto dal diciamo da un terreno non proprio naturale. No, l'effetto è molto interessante. E, quali sono state le mostre ultime che tu hai fatto in Italia? L'ultimo personale a Fattorino Galleria e anche Arte Fiera di Bologna. Adesso presentare fine novembre Arte Fiera di Step, a Step 09 a fine novembre. E più prima faccio di mostra collettiva qui, Corso Unione Sovietica 356,A, Colombo Art Gallery, 4 artisti. Si chiama Tema di Semi. Tu stai curando la parte artistica della gara. Vi ricordiamo che potete trovare tutte le informazioni su questa puntata e sulle precedenti sul sito ondivago.blogspot.com e su Facebook. I numeri precedenti della nostra trasmissione sono disponibili in rete con un clic. I brani musicali di questa puntata sono di Kevin MacLeod, musicista americano. Sono liberi da diritti e presenti sul sito incompetech.com.